Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata, la prima della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, per quello che riguarda chiaramente avremo l'appuntamento con la conferenza stampa, col punto stampa della Protezione Civile. Per quello che riguarda i temi economici in epoca di coronavirus, inizieremo a affrontare non certo in maniera esaustiva il tema del turismo, ma non solo sulla ipotesi, ne parlerà domani anche 24 mattina, di come riaprire gli stabilimenti balneari. Uno può pensare che sia presto, ci sono delle proposte, ma diciamo soprattutto perché le dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel fine settimana hanno creato un po' di scompiglio, nel senso che la von der Leyen ha detto è prematuro pensare a prenotare le vacanze a luglio e agosto. Ora, al di là della vita di ognuno di noi, il tema qui è anche dell'impatto economico. Nessuno si immagina grande flusso di turisti stranieri quest'estate, però diciamo la dichiarazione della von der Leyen è stata una doccia fredda. Alcuni potevano infatti immaginare che magari da qua a giugno, al di là dei vari piani, delle varie fasi 2, fasi 3, vi terremo aggiornati, non ci sono oggi novità se non indiscrezioni. Vorrei stare lontano dalle indiscrezioni sulla fase 2 e la fase 3. È chiaro che il governo sta pensando di riaprire alcune attività già da qua al 2 maggio e poi dal 2 maggio in poi sempre scaglionandole. E si è riunito oggi, è in riunione il comitato tecnico, quello presieduto da Colao, per capire poi anche lo scaglionamento, se può riguardare anche l'età e quindi sul modello israeliano, per farci capire non solo sui tipi di impresa, imprese manifatturiere, le fabbriche dove il distanziamento è più facile e invece per ultimi i negozi più piccoli, ma anche sulla base dell'età. Ma al di là di questo, il tema resta il turismo. Perché? Perché è chiaro che il turismo ha archiviato una Pasqua inesistente, e questo già lo sapevamo. Si appresta a archiviare anche un 1 maggio, 25 aprile e a mio avviso anche il ponte del 2 giugno. Dubito che vi sarà la possibilità di lasciare liberi gli italiani di recarsi nelle seconde case piuttosto che andare da una regione all'altra il 2 giugno. Spero di sbagliarmi, ma il rischio che poi quel ponte diventi un ponte vero, un elemento di grande rischio, mettiamolo in questo modo, dovrebbe far immaginare che un conto sono le riaperture delle attività e delle libertà individuali. Penso alla Francia, che ha dichiarato dall'11 maggio andrà a fare un lentamente, una lockdown, ma penso anche alla Regione Veneto, che alla luce del numero dei casi e del contenimento dei casi ha dichiarato che le attività potranno essere le attività fisiche svolte non necessariamente nei 250 metri vicino a casa. Di questo parleremo in apertura per iniziare a fare un avvicinamento a quello che sono anche le proposte. C'è chi dice date un bonus agli italiani che possa essere detratto comunque della dichiarazione dei redditi e quindi detraibile, c'è chi parla di altre forme, ma insomma e si inizia a fare conto anche su quello che sarà la voce stabilimenti e alberghi, non tanto nella parte isolata, ma è chiaro che se dovremmo avere un distanziamento sociale molto forte, il numero di posti disponibili diminuirà nei voli aerei piuttosto che o nei treni, nei traghetti, anche negli stabilimenti balneari, per essere ancora più chiari. Per quello che riguarda invece il resto dei temi, oggi la giornata si apre, ossia la settimana diciamo così, si è aperta con le stime del Fondo Monetario Internazionale. Adesso le ricorderò, ne parleremo poi con Romano Prodi, che per capire anche se la proposta che è arrivata da Tremonti, da Bazzoli, di lanciare un grande piano di prestito nazionale, di obbligazioni irridimibili, oppure diciamo a 50 anni, possa essere la soluzione migliore per raccogliere fondi nel giorno in cui c'è qualche apertura sui, non sui corona bond che nessuno vuole nominare, ma vi sono varie dichiarazioni, penso a Dombrovskis, ma non solo, anche la von der Leyen. Dombrovskis parla di un piano che deve valere 1.500 miliardi come fondo, e resta il tema del MES. Ora, su questo voglio essere molto chiaro. Il MES, quello senza condizionalità, io vedo che c'è ancora molta resistenza da parte sia dell'opposizione che dei 5 Stelle, quindi che di una parte della maggioranza. Però, attenzione, se parliamo solo di quella parte del MES dove è stata levata la condizionalità, cioè vuol dire che lo puoi attingere a questi soldi senza sottoporti a condizioni, secondo me l'Italia sbaglia a rinunciare a priori, e io la penso come molti altri osservatori. Perché? Perché lì ci sono 35 miliardi più o meno, 36 miliardi, fino al 2% del PIL. Abbiamo già versato 14 miliardi e mezzo dentro il MES. L'accordo raggiunto prevede che tu possa utilizzare per le spese sanitarie, dirette o indirette, fino al 2% del PIL. È chiaro che è un debito in più che contrai, ma siccome non ha condizionalità, voglio dire, non ci rinuncerei a prescindere. Vediamo quali saranno poi i conti nostri e i costi nostri. Non ci rinuncerei a prescindere. E poi appunto quello che si sta muovendo a livello europeo, ripeto, se il tema è non chiamarli corona bond o euro bond, chiamiamoli anche pino, così come se non piace il termine MES perché in automatico fa venire così irritazione ad alcuni, pur non capendo magari che è un altro tipo di MES questo. Non hanno fatto nessun lavaggio del cervello sottoscritto, lo dico a chi mi scrive, e non mi interessa se la penso come Renzi, non è ancora un reato in questo paese. Però ho detto solo che siccome c'è uno strumento che è senza condizioni, cioè quella parte del MES, rinunciarci a prescindere solo perché si chiama MES mi sembra una cavolata. Non ho detto che sia risolutivo, ritengo che alla fine dovremmo avere un fondo, anche sarebbe un bellissimo messaggio se gli italiani sottoscrivessero obbligazioni, non ci vai a perdere nulla, non è quella cavolata enorme che è uscita da una parte del PD, del Rio in primis, sulla tassazione neanche patrimoniale, che avrebbe un senso, ma proprio sui redditi, quindi chi già paga le tasse e ha già un'imposizione fiscale verrebbe ulteriormente massacrato. Altra cosa invece è dire chiediamo un prestito nazionale, se è sottoscritto dagli italiani bene, gli italiani hanno un grossissimo risparmio, non è un obbligo, però potrebbe essere un grosso segnale, anche perché sarebbe risparmio che non va in mano, diciamo, a investitori stranieri, ma resta alle famiglie italiane. Io continuo a pensare che un'obbligazione, poniamo a 50 anni, che io sottoscrivo, che posso rivendere sul mercato, che ha dei rendimenti fissati per legge e non toccabili come la tassazione, tanto i risparmi da qualche parte li devi mettere, perché non metterli in un'obbligazione che serva al rilancio del paese? E poi può essere un investimento nel lunghissimo tempo, lo darò a mio figlio, oppure posso rivenderlo come si fa con i BTP normalmente sul mercato. Come andiamo a mare e montagna se non prendiamo stipendi? Sì, conosco benissimo il tema, non sto dicendo che sarà un'estate in cui tutti avranno voglia di spendere. Ho detto semplicemente che ci si sta cercando di capire, anche qualora abbia la possibilità di andare in vacanza, come funzioneranno e come si organizzeranno, perché i principi di distanziamento non li abbiamo mai visti. E ammesso che vi siano pochi o zero stranieri, se gli italiani resteranno sostanzialmente tutti in Italia, il tema te lo porrai comunque. Detto questo, ne parleremo invece della parte internazionale nella seconda ora. Faccio notare una cosa però: oggi il Fondo Monetario esce con una cifra incredibile per quello che riguarda il calo del PIL. Perché dico incredibile? Perché uno può dire che meno 3% stimato a livello mondiale è poco. Attenzione, è un meno 3% come calo dell'economia globale. È tantissimo, perché faccio notare che nel 2008-2009, quando ci fu la crisi, l'ultima grande crisi che ricordiamo, il calo dell'economia globale fu solo dello 0,1, poi alcuni paesi fecero meno 3, meno 4, meno 5, ma altri no. E soprattutto è il calo, tra l'altro era previsto quest'anno l'economia globale crescere del 3%, adesso avremo 6,3 punti in meno, sarà la recessione peggiore dalla Grande Depressione del 1930. Questo immaginando che la pandemia svanisca nella seconda metà dell'anno. Pensate che appunto la crisi del 2008 portò solo a un meno 0,1%. Nello specifico le stime poi sono pesantissime. L'area euro farà quest'anno meno 7,5%, la Germania meno 7, come la Francia meno 7,2, l'Italia meno 9, la Spagna meno 8%, la Gran Bretagna meno 6,5%, e via così. Poi il prossimo anno un po' di recupero, più 5 in Germania, più 4,5 in Francia, più 4,3 in Spagna, più 4% in Gran Bretagna e più 5% in Italia. Mi sembra però un po' presto per stabilire se veramente vi sarà il rimbalzo o no. La cosa incredibile è la stima poi che ha dato il Fondo Monetario Internazionale sulla disoccupazione, perché in Italia dovrebbe salire dal 10% l'anno scorso al 12,7%, che è, però in Francia arriverebbe dall'8,5 al 10,5, in Spagna dal 14 al 20,1%, quindi un aumento ben più forte di quello italiano e francese, in Germania poco, dal 3,2 al 3,9, dove è incredibile è la stima sugli Stati Uniti, perché se ho ben visto gli Stati Uniti sono previsti crescere, la disoccupazione dovrebbe arrivare quest'anno al 10%, e contro il 3% dell'anno scorso, quindi una crescita triplicherebbe la disoccupazione negli Stati Uniti. Allora 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, mi scrive un ascoltatore: come al solito di economia non capisci un ca, va bene, se può essere più dettagliato in che cosa non capisco un ca, sarei più così, il suo messaggio sarebbe un pochino più costruttivo. Andiamo invece alle borse. Allora, meno 0,50 Milano, oggi Milano è l'unica negativa, più 0,60 Parigi, più 1,50 Francoforte, oddio, l'unica negativa nell'area euro, perché poi c'è Londra che perde l'1%. Tra i titoli segnalo oggi un po' di debolezza, anche più di un po', sulle banche. Lo spread è tornato a 220 punti nella giornata, ha sfiorato quota 210, il rendimento del BTP a 10 anni è salito all'1,69%, UniCredit meno 5,50, BPER meno 4,80, Mediobanca meno 4,40, Banco BPM meno 4, Azimut meno 3,80, Intesa meno 3, e poi fra i non bancari, appunto, Saipem e Medeni perdono il 2,5% e il 2,70%, CNH il 2,20%. Allora, mi chiede, non capisco perché lei chiami una cavolata la proposta del Rio di un contributo di solidarietà per 2 anni per chi ha più di 85.000 euro. Allora, lo dico per 2 motivi. Uno, perché non è neanche una patrimoniale, almeno la patrimoniale va a agire su patrimoni accumulati e delle volte anche accumulati con l'evasione fiscale delle volte, mentre la proposta di Del Rio va sul reddito. Ora, noi sappiamo, perché le dichiarazioni dei redditi le commentiamo, che sopra gli 85.000 euro tu hai persone che intanto non sono particolarmente ricche. Immaginate qual è il netto di chi guadagna dai 85.000 a 100.000 euro in su con 2 figli, ma soprattutto stai parlando di redditi che sono già nella maggior parte dei casi stratassati, nel senso che sappiamo che poi l'evasione non arriva, diciamo, a dare dichiarazione dei redditi sui 100.000 euro, o comunque è minoritaria. Allora, la patrimoniale a me in questo momento sembra una cattiva idea, anche la patrimoniale, perché va a creare fuga e quant'altro, ma almeno quella ragiona non sul reddito prodotto, ma sul patrimonio che hai anche ereditato e hai accumulato. Qui si va a ragionare solo sul reddito prodotto, in molti casi già stratassato, per vedere poi che la raccolta presunta di questa tassazione sarebbe 1,3 miliardi all'anno. Seconda cavolata: cosa te ne fai di 1,3 miliardi all'anno con le cifre di cui stiamo parlando? Spaventi e fai incavolare solo i cittadini. Allora, a questo punto è meglio dire, guardate, sottoscrivete un'obbligazione che almeno ti dà un rendimento, almeno i soldi non li stai perdendo, li metti a disposizione dello Stato per riaverli fra 50 anni. Poi qualcuno mi scrive, dovrebbe essere forzosa. Beh, guardi, tra il prelevo forzoso di Amato Nottetempo e un'obbligazione in cui tu mi dici, guarda, ho preso 10.000 euro tuoi e li ho messi in un BTP a 50 anni, è ovvio che preferisco la seconda, su. Sul MES, la parte non condizionale, certo che è un debito che va restituito, non stiamo parlando di fondi a soldo di soldi a fondo perduto, però sto solo dicendo che la parte dove non ci sono condizionalità andrebbe utilizzata, andrebbe valutata almeno l'ipotesi di utilizzarlo e non solo perché si chiama MES. Va bene, notizie in breve, Disney World in Florida ha sospeso dal lavoro 43.000 dipendenti, ha licenziato temporaneamente 43.000 dipendenti. JP Morgan, l'ultimo trimestrale crolla del 70%, ricavi in calo. Wells Fargo chiude il trimestre meno 89%. Le compagnie aeree, sempre a livello mondiale, la IATA stima una perdita delle compagnie aeree di 314 miliardi di dollari per il 2020, ossia il 55% in meno rispetto al 2019, e peggiora ulteriormente le previsioni del 24 marzo. La ripartenza, veniamo all'Italia, oggi librerie ma non in tutte le regioni, cartolerie e negozi di abbigliamento per l'infanzia, la Lombardia l'ha vietata, in Campania l'ha vietata, ha vietato le librerie e le cartolerie, ma ha tenuto aperti i negozi di abbigliamento solo due mattine alla settimana. Il Lazio posticipa tutto al 20 aprile, in Emilia Romagna resta la stretta nelle cosiddette zone arancioni, in Liguria si può andare ai frutteti dove ci sono anche gli orti e procedere alle manutenzioni degli stabilimenti balneari, dei chioschi, e in Veneto, come sappiamo, consentite l'attività motoria anche oltre 200 metri da casa, però con mascherina, guanti e gel. Aumentato anche il distanziamento sociale da 1 a 2 metri, ormai mi sembra che tutti abbiamo capito che un metro molte volte non basta. Il governo sta valutando l'ipotesi di un eventuale anticipo anche della cosiddetta fase 2, e questo su cui sta lavorando la task force guidata da Vittorio Colao, magari con alcune specifiche attività, la filiera della moda, l'automotive e la metallurgia. C'è un appello di 500 sindaci al governo per chiedere 5 miliardi di euro nel decreto di aprile, il conferimento ai sindaci dei necessari poteri per velocizzare le opere più importanti, le ripartenze dei cantieri. E poi stimano in un miliardo invece la necessità di mascherine per le imprese, in un miliardo al mese, quasi un miliardo di mascherine al mese, 9.000 metri cubi di gel igienizzante, 456 milioni di guanti, 2 milioni di termometri, 250.000 cuffie per i capelli. Questo è uno studio realizzato dal Politecnico di Torino e come ha spiegato il rettore Guido Saracco, che è intervenuto a Effetto Giorno con il nostro Alessio Maurizi. Noi ci siamo prestati in questa fase di corsa alla produzione nazionale di mascherine a mettere a disposizione questi laboratori per le certificazioni dei tessuti, e da lì abbiamo capito una cosa fondamentale: è difficilissimo individuare delle filiere efficaci secondo le norme, e contemporaneamente c'è un bisogno enorme di mascherine. Magari useremo le app e queste cose, ma subito, se uno vuole partire, deve convivere col rischio di trasmissione del virus e annientarlo con dei mezzi che siano semplici, economicamente compatibili anche con le piccole imprese. Il problema è che localmente abbiamo individuato su una trentina di ditte che abbiamo analizzato solamente una filiera che è in grado di produrre delle mascherine chirurgiche a norma, ma questa filiera locale riesce a produrre in un mese 10-15 milioni di mascherine per il Piemonte, e il Piemonte da solo avrebbe bisogno di una trentina di milioni di mascherine per i lavoratori. Bisogna dotare ogni lavoratore di 3-4 mascherine al giorno, perché c'è anche da considerare il trasporto da e verso il luogo di lavoro. Stiamo anche ragionando con l'Istituto Superiore di Sanità di varare una norma specifica per fare delle mascherine che proteggano i lavoratori pur non arrivando a livello chirurgico, ma che si riescano a produrre produrre con i materiali locali. Dopodiché si stanno riaprendo le fabbriche in Cina, in altri paesi, e di lì può arrivare, ma bisogna oggi ordinarle per averle fra 15 giorni se si riparte in grande quantità. La data del 4 maggio per una ripartenza in questa fase 2, lei la vede, come dire, possibile, o visto le carenze che poco fa ci ha illustrato, diciamo, ci vuole ancora tempo, oppure crede che in questo lasso di tempo riusciremo a colmare le distanze? Se si parte subito con le mosse giuste si potrà partire, non solo poche aziende che si sono già dotate di strumenti di protezione individuale o collettiva, eccetera, ma quando anche lei trovasse gli strumenti deve insegnare ai suoi dipendenti ad usarli in modo chiaro. Allora, veniamo al tema del turismo. Uno può dire perché ne parli adesso, è ancora presto. No, perché intanto la stagione si fa il bilancio su quanto non c'è stato a Pasqua, non ci sarà il 25 aprile, il ponte del 1 maggio e a mio avviso anche il ponte del 2 giugno. Ma poi perché di solito la stagione turistica si muove un po' prima, prenotazioni, gli stabilimenti balneari che devono attrezzarsi, gli alberghi e quant'altro, ed è arrivata come doccia fredda la dichiarazione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha detto attenzione, io sconsiglio di prenotare adesso, pensare già adesso alle vacanze estive, nessun per luglio e agosto, nessuno può fare previsioni affidabili, lo ha dichiarato in un'intervista domenicale alla Bild. Berna Babocca, presidente di Federalberghi, buonasera. Sì, buonasera a tutti voi. Allora, due notizie in breve, poi vengo all'intervista. Per quello che riguarda la Commissione Europea, ha dato oggi via libera al decreto legge imprese, quindi il famoso decreto legge che dà le garanzie dello Stato per i prestiti, nessuno ha bisogno di altre garanzie fino a 25.000 euro, poi 800.000 euro, poi 5 milioni con i confidi, l'abbiamo spiegato molte volte, ha avuto il via libera il decreto legge imprese, è un valore che di circa 200 miliardi come garanzie. L'ABI, le banche italiane, hanno detto importante questo passaggio dell'Unione Europea, e adesso cercheremo anche di snellire tutte le pratiche, ed era fondamentale per la piena operatività delle misure previste, soprattutto relative alla garanzia della SACE e l'articolo 13 fondo di garanzia delle PMI, cioè era importante che non ci fosse il dubbio se l'Europa l'avrebbe o no fatto passare. E adesso dice il vice direttore generale dell'ABI, Torriero, siamo alla dirittura finale per i prestiti garantiti dallo Stato alle PMI, fino a 25.000 euro arriveranno nei prossimi giorni, non vi è stata nessuna fuga dei depositi a marzo, anzi più 5%, e il Ministero dello Sviluppo Economico fa sapere che online il modulo sul sito fondi garanzia di richiesta di garanzia fino a 25.000 euro, quello più facile da compilare e inviare per mail anche non certificata alla banca o ai confidi. Questo lo volevo dire perché riguarda anche Bocca e i suoi associati, perché insomma non solo tutti gli altri imprenditori. Cerchiamo di capire il tema del turismo. Allora, so che fa male ricordarlo, ma l'anno scorso noi abbiamo avuto 8 miliardi e 200 milioni di giro d'affari nella Pasqua, l'87% degli italiani era rimasto in Italia e erano arrivati sostanzialmente, il resto erano stranieri, gli stranieri erano stati 3 milioni, quest'anno è tutto chiuso e fin qua voi vi state rassegnando chiaramente anche il fatto che maggio e probabilmente il ponte di giugno non vi saranno. Ora, qual è la vostra preoccupazione? Perché qui noi stiamo tutti cercando di capire come si potrà immaginare un'estate, la dico in maniera molto brutale, con il distanziamento a 2 metri. Per noi questo ovviamente è un problema, noi non siamo una fabbrica, per cui l'albergo ha da sé che è un posto in cui la gente si incontra. Noi abbiamo chiesto al governo di darci un protocollo, un'ordinanza nazionale per la sicurezza dei clienti e dei nostri collaboratori, perché solo applicando quel protocollo noi possiamo garantire degli standard che siano degli standard oggettivi e metterci anche al riparo in un domani da eventuali contestazioni o cause da parte di dipendenti o di clienti. Certo. che questo è il primo tema. Mi permetto di fare un'osservazione su quello che lei diceva prima, perché fermo restando gli annunci dei 400 miliardi alle imprese, noi stiamo ancora aspettando i soldi dall'INPS della cassa integrazione, nel senso oggi le aziende hanno anticipato gli stipendi di marzo ai propri dipendenti in cassa integrazione, perché l'INPS, il sito dell'INPS è andato in tilt e non sappiamo ancora oggi quando questi soldi arriveranno. Quindi non solo i 600 euro, ma lei parla della cassa integrazione in questo caso. Io parlo della cassa integrazione del fondo integrativo salariale. Per cui il ministro Gualtieri ha detto entro il 15 si dovrebbero sbloccare i 600 euro, noi chiediamo al ministro Gualtieri quando pensa di sbloccare i soldi della cassa integrazione. Il secondo tema, sono felice che l'Europa abbia dato il via libera al famoso decreto liquidità, ma anche in questo caso i tempi che le banche ci hanno detto per avere i soldi nell'economia reale, si parla di mesi, perché comunque le banche dovranno aprire le pratiche, valutare il merito creditizio dell'azienda per il 10% di garanzie che l'azienda deve dare, dopodiché passare la pratica alla SACE, che dovrà aprire un'altra pratica, restituirlo alla banca, che la banca erogherà i soldi. Oggi per noi è un tema di tempistica. Quello che lei diceva prima, come gli alberghi affrontano la stagione, innanzitutto capire se gli alberghi avranno ossigeno per riaprire, perché noi stiamo parlando di alberghi chiusi ormai da un mese, che rimarranno chiusi altri due mesi, e quindi apriranno nel mese di giugno con un sistema di costi che in questi mesi è corso, a ricavi zero e a liquidità che in questo momento non è arrivata un euro nelle tasche degli imprenditori. Ciò detto, noi siamo pronti a ripartire e vogliosi di ripartire. Sappiamo che il mercato di riferimento sarà il mercato italiano. Stiamo quindi facendo campagne di promozione e di sensibilizzazione per gli italiani a prenotare le loro vacanze in Italia. Presidente Bocca, si fermi qua perché ho il meteo e poi vorrei invece andare sulla parte propositiva. Fa bene a ricordare che i tempi sono fondamentali nell'erogazione, non solo i 25.000 euro ma soprattutto a parte gli 800.000 e poi fino a 5 milioni con i Confidi. Parlo delle piccole e medie imprese del fondo di garanzia, perché spesso i suoi associati questo sono, piccole e medie imprese, non hanno dimensioni da più di 500 dipendenti. E ricordare anche la cassa integrazione, io spero, visto le dichiarazioni, di uno snellimento ulteriore nelle procedure, da un lato con le banche per la liquidità, e poi spero che l'INPS, adesso vi racconterò anche i dati perché oggi ho visto tutto un insieme di dati su quante erano state le domande INPS, che l'INPS si dia una, non una svegliata perché sembra poco rispettoso, ma cerchi di velocizzare le pratiche, non so cos'altro dire. Però dopo il meteo vorrei capire con lei che formule si possono immaginare. È chiaro che è tutto un cantiere, abbiamo visto, avete lanciato un'iniziativa hashtag cambia la data, hashtag change the date, quindi prenotazioni flessibili. Ricordo una sua proposta di poter defiscalizzare buona parte delle spese che io faccio nel turismo in Italia per incentivare il settore. Vorrei capire a che pacchetto state ragionando, immagino anche per dare il vostro contributo alla task force di Colau. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, Presidente Bocca, al di là di quello che giustamente il governo deve fare e soprattutto garantire dopo gli annunci, veniamo a uno sforzo di immaginazione. Nessuno poteva neanche immaginare due mesi fa una situazione del genere, quindi nessuno ha la verità o la ricetta pronta. Dobbiamo immaginare però che vi saranno misure di distanziamento sociale, e questo, mi scrivono molti ascoltatori, andrà a colpire magari meno ambienti, perché sappiamo che, non so, faccio esempio, il bagno più grande, più lussuoso ha più spazio, situazioni, stabilimenti più piccoli hanno meno spazio. Ma dobbiamo anche immaginare degli italiani, alla luce di quello che diceva la von der Leyen, che saranno un po' diffidenti adesso a prenotare a pacchetto chiuso, non lo so, fine luglio, inizio agosto, metà luglio, e anche con meno soldi in tasca. Le vostre proposte, fermo restando che è tutto un cantiere, come sa benissimo Colau. Le nostre proposte sono innanzitutto quelle di adeguare le tariffe a un mercato italiano che ovviamente è un mercato che non è alto spendente come il mercato americano, certo, come il mercato russo o asiatico. Per cui sicuramente ci saranno tariffe in linea sulle esigenze del mercato nazionale. E come diceva giustamente lei, oggi noi dobbiamo dare tranquillità ai nostri turisti di quest'estate, dicendo che se il turista oggi prenota non avrà nessun problema nella cancellazione della prenotazione, non ci saranno caparre, non ci saranno cancellation policy, in maniera tale che ci sia un pochettino più di tranquillità nel prenotare una vacanza italiana. Per quanto riguarda il tema del distanziamento, ovviamente, come dicevo prima, stiamo aspettando anche noi questo protocollo che abbiamo sollecitato, siamo assaliti da aziende di sanificazione da tutti i lati. Ecco, prima di muoverci vorremmo avere le idee chiare da parte del governo sulle misure di sicurezza da garantire ai nostri clienti. Però il messaggio che io do agli italiani: cerchiamo di dare una mano a questo paese che oggi ne ha veramente bisogno. Allora, la proposta che voi avete fatto di una specie di bonus per le vacanze, che riguarda l'albergo ma non solo, cioè se io spendo fino a una certa cifra, immagino non possa essere un bonus, anche perché deve andare a vantaggio di chi ha meno da spendere, ma io posso detrarre dalla mia dichiarazione dei redditi, la porterete avanti? Secondo me è una proposta questa molto giusta, però dipende quanti soldi ci saranno a disposizione per il settore. Ovviamente questa è una proposta che costa. A mio giudizio sarebbe una proposta che comunque farebbe emergere il nero, perché il cliente sarebbe, perché il cliente a questo punto chiederebbe per forza la ricevuta o la fattura dell'esercizio in cui sta andando, quindi sarebbe in parte compensata da un aumento di gettito IVA. Però ovviamente è una proposta che sulla carta costa molto. Noi la riteniamo molto utile, però riteniamo altre proposte più utili in questo momento, come ad esempio il differimento delle tasse, delle scadenze fiscali per gli alberghi che, avendo zero ricavi, oggi hanno difficoltà a fare uscite di cassa. L'italiano, se può dedursi la vacanza, sarà più incentivato a farla. È una manovra questa che dovrebbe costare circa 1,5 miliardi, 2 miliardi. Io ritengo che per un paese come l'Italia 2 miliardi sul turismo possano e debbano essere spesi, però è una scelta che purtroppo non dipende da me. Allora, vedo un ascoltatore che mi dice: sono andato in banca per i 25.000 euro, la banca vuole la dichiarazione che ho avuto un calo del 30%, cosa che il decreto non prevede. No, anche a me non risulta che preveda questo. Ci sono altre dichiarazioni che prevedono il 30%, le andiamo a riprendere, ma la parte sui 25.000 euro non prevedeva nessuna, tant'è che non c'è neanche bisogno di vedere un pregresso sul 30%, io non me la ricordo, perché adesso andiamo a controllare, però spero che le banche non iniziano a mettere 1.000 paletti su. Avete sui 25.000 euro il 100% di garanzia dallo Stato, qual è il problema? Andiamo avanti invece con Bocca per un'ultima domanda. Allora, molti dei suoi associati sono sia albergatori che però hanno anche stabilimenti balneari, cioè, la struttura di questo paese fa sì che molti in Liguria, in Versia, nell'Adriatico, insomma, nel sud Italia, che l'albergo abbia anche lo stabilimento balneare. Domani Asso Balneari sarà ospite di 24 Mattino. Lei ha visto che c'è questa proposta, non so se sia così fantasiosa, di mettere delle strutture di plexiglass. Al di là della struttura di plexiglass, a me sembra, non oso pensare il caldo che farà lì dentro, però diciamo una sauna più che una struttura. Ma detto che può anche servire, perché mi ha scritto un ascoltatore, andrà tutto stretto, nel senso che continuiamo a mangiare in questo modo, forse un po' di sauna ti fa bene. Ma il problema del distanziamento, Bocca, è chiaro che esiste soprattutto per gli esercizi balneari più popolari, cioè in chi non si può permettere 2 metri, 3 metri di ombrellone e quindi anche gli alberghi non di fascia altissima. Ecco, lì io non so bene come si riuscirà a risolvere, perché voi vi aspettate che appunto gli italiani restino in Italia, ma se poi io non ho lo spazio perché hai ridotto del 50% l'offerta? No, ma soprattutto il tema dei breakfast per noi. Certo, anche della colazione la voglio vedere. Perché indipendentemente dal livello di un albergo, io parlo di un albergo da 100 camere, quindi se è pieno sicuramente quest'estate non sarà pieno, ma diciamo nel migliore dei casi magari ospita 160-180 persone, e se al breakfast non avere un distanziamento da 2 metri, ci vuole un campo da calcio per far fare il breakfast a questi clienti, per cui il tema o la turnazione sui breakfast o il servizio in camera, sicuramente ci sarà un incremento di costi per un servizio che sarà diverso dal servizio precedente. Io credo che difficilmente in questa situazione i buffet breakfast verranno utilizzati, verrà utilizzato un servizio alla persona, un servizio in camera, un room service, però tutto questo noi stiamo aspettando di capire che cosa saranno le indicazioni. Ecco, noi non vogliamo aprire trasformando gli alberghi in ospedali, a quel punto lì preferiamo non aprire, perché il cliente se va in vacanza a luglio-agosto non può trovarsi in una sala operatoria. Per cui se ci sono le condizioni per aprire in sicurezza, noi vogliamo e siamo pronti a aprire. Se viceversa dobbiamo avere dei protocolli, degli istituti dei medici che ci trasformano gli alberghi in ospedali, a quel punto secondo me non vale neanche la pena. Un ultimo accenno su quello che lei diceva, la task force. Noi abbiamo grossa stima nella persona di Vittorio Colao, con il quale ci siamo già parlati, e per parlare del tema del turismo. Mi sembra un po' strano, ecco, che in una task force di 17 persone non ci sia nessun rappresentante delle imprese, un albergatore, un ristoratore, un industriale. Cioè persone che sanno come le imprese funzionano. Guardi, devo stare zitto, anzi non sto zitto, sono d'accordo con lei, perché anch'io ho notato, per carità, non ho niente da dire sui nomi di dentro, no, alcuni li conosco, altri no, e quindi ognuno poi si faccia il suo giudizio sullo spessore, però siccome sono 17, se facevi altri 3 avevi fatto la panchina, diciamo 4. Anch'io ho notato che in questi 17 non c'è nessuno che venga. Colao è un grandissimo manager di Vodafone a livello mondiale, quindi conosce le imprese, ma conosce le corporate. Mi sarebbe piaciuto vedere qualcuno che conosce bene e che le ha studiate, ma conosce i modelli distrettuali, le filiere, come funzionano delle imprese italiane, e quindi cosa la differenza tra la filiera della moda e la filiera, per esempio, del bianco, la filiera del medicale piuttosto che quella della farmaceutica, e anche qualcuno nel mondo del turismo, perché ripeto, dell'industria turistica, perché anche a me sarebbe piaciuto vedere io per esempio continuo a non capire come faranno gli stabilimenti balneari più popolari, Bocca, perché lì sappiamo che in alcune regioni, vuoi per il tipo di spiaggia di conformità, vuoi perché lo stabilimento giustamente era popolare, come fanno a distanziare di 2 metri? Questo io continuo a... Anche perché la cabina in plexiglass mi sembra una proposta provocatoria, perché poi io sto dentro la gabbia di plexiglass e guardo il mare da lontano, perché il momento che esco dalla mia gabbia ovvio che c'è un contatto con le altre persone, a meno che non possa fare il bagno. A meno che uno si prenoti per fare il bagno. Esattamente, ma cioè voglio dire, se ci sono le condizioni tutti pronti a farlo, se non ci sono le condizioni... non c'è problema, l'importante è che rompe, paga e i costi sono suoi, ecco, perché se ci mettono nelle condizioni di stare chiusi, però devono rimborsare le strutture turistiche dei costi che stanno sostenendo. Allora, staremo a vedere. Grazie anche al Presidente, in bocca al lupo a tutti gli associati di Federalberghi. Adesso vado rapidamente sui mercati finanziari e poi attendiamo la conferenza stampa, come sempre tra poco, della... Protezione Civile. Mi fate molte domande sulle spiagge libere, saranno chiuse. Io immagino, da quello che abbiamo capito, che il distanziamento dovrà essere fatto dovunque, come adesso. Io sto guardando la delibera di Zaia, per esempio, mantenere i 2 metri, e immagino che anche in una spiaggia libera non debba stare a 2 metri di distanza. Ma veramente il problema non è sulla spiaggia libera, a mio avviso, è proprio sulle strutture organizzate laddove. Ma voi immaginate cosa succede tutta la parte di ristorazione dei bagni, delle attività balneari, non la ristorazione, già quella, andare al ristorante distanziato di 2 metri con il cameriere con la mascherina, ma a tutto il resto della ristorazione, una voce che pesa tantissimo, pesa per il 13% del nostro PIL il turismo come voce. Allora andiamo sul traffico, là. Focus Economia. Oh, le informazioni sul traffico più brevi della storia, delle informazioni sul traffico di Radio 24, beh, c'è un motivo. Vedo che molti mi scrivono sulla task force. Guardate, facciamo lavorare Vittorio Colao, di cui personalmente ho grandissima stima. Per... mi sembra, de due l'una, posso dirle, il comitato dei 17 o è troppo affollato o è troppo poco, nel senso che mancano alcuni soggetti. Io avrei messo dentro tipicamente il mondo del commercio, turismo, commercio e turismo, perché commercio vuol dire anche i bar e tutte le altre attività che non ho capito bene come riaprire, 40 metri quadri una persona o no, e la manifattura, cioè l'industria, le filiere industriali. Non voglio fare la lista, diciamo che a mio avviso ci sono troppi accademici, l'ho detta, ma non penso che sia stata una scelta solo di Colao. Comunque troppi accademici che vanno benissimo in alcuni casi, li avremo anche ospiti, per carità, però due o tre imprenditori in più li avrei messi dentro, piccoli imprenditori nel mondo del commercio, chi rappresenta la manifattura, chi rappresenta il turismo. A proposito di mondo del commercio, Sangalli, che è il presidente di Confcommercio, ha diffuso un audio che adesso vado a riprendere sulle stime per il settore. Il ministro Franceschini oggi ha detto che nel disegno di legge di aprile vi saranno misure ad hoc per il turismo, per una riapertura di siti e di spiagge. Ne ha parlato a lungo con gli assessori regionali al turismo in vista del decreto di aprile. Tra i temi discussi anche il cosiddetto bonus vacanze. Però l'INPS ha chiarito che le aziende del turismo avranno i contributi previdenziali sospesi dal 2 marzo al 31 aprile, compresi quelli a carico delle associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Nel frattempo la Confcommercio, come dicevo, diffonde il dato sui consumi. Allora, il dato è relativo al mese di marzo, e comunque era già un mese, meno 31,7% rispetto a marzo del 2019, e con una contrazione del PIL ad aprile del 13%. E il presidente di Confcommercio Sangalli dice in questo appello: servono indennizzi a fondo perduto. I dati di marzo confermano il crollo dei consumi e dei fatturati delle imprese. Serve liquidità immediata senza burocrazia, integrando le garanzie dello Stato con indennizzi e contributi a fondo perduto. Va inoltre pianificata attentamente la riapertura delle attività, preparando i livelli sanitari e tecnologici organizzativi, perché il Paese, appena possibile, deve riaccendere i motori e ripartire in assoluta sicurezza. Allora, vedo molti ascoltatori che mi segnalano problemi in banca. Io spero che adesso rinviteremo Patuelli. Vedo molti che mi dicono: guardi, che a me la banca ha detto non le vogliamo, sui 25.000 euro. Io non capisco perché c'è tutti questi problemi sui 25.000 euro. Aprite questa pratica, dateli, sono garantiti dallo Stato. Poi comunque è un prestito. Deve essere tornato dopo sei mesi con due anni di, diciamo, di sospensione iniziali. Boh. Qualcuno mi dice: è un lapsus o l'INPS ha fatto... No, i contributi sono sospesi fino al... ho detto 31, è il 30 aprile, scusatemi, 30 aprile, fino al 30 aprile. Però in realtà il lapsus non era solo mio, perché l'agenzia batteva: le aziende del turismo avranno i contributi previdenziali sospesi dal 2 marzo al 31 aprile. Diciamo che il 31 aprile tende a non esistere nel calendario, anche quello col coronavirus. I mercati finanziari oggi: Milano poi ha recuperato meno 0,3%, Parigi più 0,3%, Francoforte più 1,20%. Abbiamo visto un po' di sofferenza sui titoli bancari, e quindi Enrico Miele, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Unicredit meno 4,5, Biper meno 4,5, Mediobanca meno 4,20, Banco BPM meno 3,80, Intesa meno 2,70%, i migliori invece Nexi più 5,90, Diasorin in più 5, Atlantia più 3,5, Moncler più 2,60, Unipol più 2 come Generali e Banca Generali. I bancari? Sì, in realtà i bancari hanno rallentato, o meglio peggiorato sul finale, zavorrando un po' Milano, che alla fine è stato il listino peggiore. L'impressione degli operatori è che la paura sia legata all'innalzamento dello spread. L'innalzamento dello spread sui nostri titoli di Stato inevitabilmente legato anche a quelle che sono le prospettive del Fondo Monetario Internazionale, che vede nero sull'economia mondiale, sull'economia europea e a scalare sull'economia italiana, prospettive dell'FMI che invece è riuscita a dribblare Wall Street, che sta viaggiando in positivo nonostante le prime trimestrali che segnino un calo deciso degli utili delle banche. Sì, e devo dire da questo punto di vista poi questa è l'unica preoccupazione oggi sul mercato. C'è un po' di debolezza di Eni, meno 1,5%, e Saipem meno 1,30%, i migliori e peggiori Tesla più 28%, Matica Fintech più 21,50%, e poi Peugeot invece meno 7,40%, classe editori meno 6,60%. Grazie a Enrico Miele. A chi mi dice, no guardate, i 25.000 euro, l'unica clausola è che non possono essere più del 25% del fatturato, in questo senso, ma non c'è nessuna clausola che dica devi aver perso più del 33%. Daremo questa perché era uscita, ma per altri motivi, il livello del fatturato del 33%. Comunque andiamo sul GR24, poi tra poco la protezione civile. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Brescia ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ASST Spedali Civili di Brescia, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per affrontare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di breve, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... Che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22:30 e la domenica alle 14 su Radio 24. L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24. Focus Economia. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ecco la conferenza stampa della Protezione Civile. Anche questa sera ci assiste nel corso di questa conferenza stampa. Ringrazio il professor Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento Emergenza e Rianimazione del Policlinico Gemelli. Voglio anche ringraziare il professore Guidi che questa sera è qui con noi, e col professore Guidi abbiamo un lungo rapporto. e la sua presenza mi permette di dire in apertura di questa conferenza stampa quanto sia importante il tema della disabilità anche per quello che riguarda il coronavirus. Noi come Protezione Civile, col nostro sistema di Protezione Civile, siamo accanto alle persone disabili e quindi lo voglio ringraziare perché mi ha permesso in apertura di richiamare questo importante tema che coinvolge la nostra società, le nostre famiglie e quindi per noi è molto importante questo tema. Partiamo dai dati di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 104.291 con un incremento di 675 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi sono infatti 3.186 pazienti in terapia intensiva, sono 74 in meno rispetto a ieri e il numero dei pazienti ricoverati con sintomi sono 28.011 con una diminuzione di 12 rispetto al numero di ieri. Mentre la maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi sono il 73.094, il 70% dei pazienti positivi. Il numero dei morti registrato oggi è 602 nuovi deceduti. Il totale dei guariti sale a 37.130, il numero dei guariti oggi è 1.695 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le forze in campo, voglio ricordare i nostri volontari. Oggi sono 10.598 volontari che si aggiungono alle strutture operative, ai vigili del fuoco, alle forze armate, alle forze di polizia, al personale sanitario. Allora al riprendo la linea. Dunque, le notizie positive riguardano l'incremento dei contagiati. Sono 675 più di ieri, il numero più basso da un mese, ieri era stato 1.363. Però bisogna chiarirsi, perché per i nuovi positivi si intendono i nuovi positivi al netto di chi è deceduto e di chi è guarito. Ecco perché poi c'è un calcolo diverso invece sulla somma totale dei contagiati totali, che invece tengono conto sia dei nuovi positivi sia di chi è deceduto e sia di chi è guarito. Le vittime non sono belle, lo dico subito, sono 602 più di ieri, ieri era stato 566 e siccome noi guardiamo sia i nuovi ricoveri, perché quello ci interessa per capire come sta andando anche quanto virulenta è in base ai contagiati il numero di ricoveri, e lì arrivano buone notizie, i ricoveri sono ci sono più 74 in meno e anche i posti di terapia intensiva ce ne sono, appunto ci sono meno ricoverati in terapia intensiva, però devo dire che anche a Milano arrivano una frenata totale dei nuovi contagi, più 57, ieri erano stati 296, anche a Bergamo più 35 e Brescia si attesta a più 125. Il dato non bello riguarda le vittime. Allora, i contagiati totali oggi sono cresciuti meno di ieri. Ieri erano 3.100, domenica 4.000, sabato 4.006, venerdì 3.009, giovedì 4.000. I nuovi contagiati, quelli che tengono dentro tutto, sia i nuovi positivi sia i deceduti che quelli che invece sono guariti. E l'incremento è basso, per fortuna è più 1,8%, è il livello più basso da quando lo stiamo stimando, da quando è iniziata, almeno da un mese a questa parte, perché ho tutte le serie storiche dei nuovi contagiati totali, più 1,8%, 2.972, di cui appunto 1.000 il netto sono 675, cioè la differenza tra i guariti, 1.695, i deceduti 602 e quello che resta è la differenza dei nuovi positivi. Per cui quella è una buona notizia, così come il numero dei ricoverati e dei ricoverati in terapia intensiva. Non è una buona notizia il dato sui deceduti, perché continuiamo a mantenere un livello tra i 500 e i 600, l'altro ieri 430, il che porta il numero delle vittime in Italia a superare i 21.067. Forse c'è stato un po' di ritardo nel dato di ieri, quindi sintetizzando, Buono il dato sui contagiati totali, buono il dato anche sui positivi al netto dei deceduti e dei guariti, che sono solo 675 in più, più 0,65%, però non buono il dato sui deceduti, che può, sappiamo, variare per molti motivi. Il numero totale dei casi, che porta al totale a 162.000, 2.700 appunto, 2.972 è un numero complessivamente basso, perché sono stati, ci sono stati anche molti guariti, però ed è il numero più basso come nuovi contagiati totali da quando guardo le serie storiche, cioè andiamo fino al 13 marzo per trovare un dato così basso nei nuovi contagiati totali. Ripeto, sui positivi netti, al netto dei deceduti e dei guariti, anch'esso è basso, più 0,65%. Non è basso, invece i deceduti sono tornati a crescere, più 2,9%, mentre ieri avevano fatto 2,8, 2,2 il giorno prima e 3% nella settimana precedente. Allora, qualcuno mi scrive, ma il tema era Lombardia? Sì, certo che il tema era Lombardia, perché la Lombardia non c'è una proporzione nel resto del paese. La Lombardia fa in un giorno i morti che fa il Lazio da inizio dell'epidemia, dal primo marzo. Guardate il Veneto, se uno prende le proporzioni tra la Lombardia con oltre 10.000 deceduti e il Veneto che ne ha meno di 1.000, o anche l'Emilia e il Piemonte che sicuramente non sono messo bene, non c'è proporzione tra il numero di residenti. Qui è successo qualcosa, la procura di Bergamo sta indagando per quello che riguarda la zona Lombardo, c'è stato un problema. Molti dicono si sono ospedalizzati in maniera non senza prevenzione, senza diagnosi sul territorio, troppi, e si è nosocomizzata da questo punto di vista l'epidemia, cioè si è concentrata sugli ospedali, sulle residenze. Vedremo dove porteranno le inchieste. È sicuro che il problema del paese in questo momento è la Lombardia, e non solo rispetto al sud, che si sta muovendo benissimo, ci sono regioni che hanno avuto saldi zero o poche decine di unità. Un ascoltatore mi ha scritto: ma cosa sarebbe successo se per esempio il numero di contagi, deceduti, ricoverati fosse stato ribaltato, cioè in Sicilia o in Puglia e non in Lombardia, la Lombardia ne avesse avuti pochissimi, avremmo chiuso le fabbriche nello stesso modo? Non lo so, ritengo però che prima o poi il tema della differenza enorme regionale di questa diffusione del virus vada affrontato, intanto a favore delle regioni del centro-sud, ma anche rispetto ad alcune regioni del nord. E non è un caso che Zaia si sia mosso in maniera diversa ieri, cioè quando tu hai una percentuale di morti che è meno di un decimo della Lombardia, non hai proporzione. Il problema in questo momento è prettamente, non c'è anche il Piemonte per carità, però prettamente lombardo. Qualcuno altro mi ha scritto: ma forse converrà tenere la Lombardia unica zona arancione rossa? È certo che non me lo auguro, però devo pensare anche, abitando qui, ma devo pensare anche al resto del paese, e se la tendenza continua a essere questa, è inutile essere ipocriti e far finta che tutta l'Italia sia la Lombardia o la Lombardia rappresenti tutta l'Italia. Traffico e poi Romano Prodi su MES, Eurobond e diciamo, la partita che continua a giocarsi in questo momento a livello europeo. Focus Economia. Allora, faccio il riepilogo delle puntate precedenti, nel senso che abbiamo avuto vari ospiti in queste settimane, cito gli ultimi, l'ex ministro Giulio Tremonti, ma anche l'economista Mario De Aglio, piuttosto che l'opinione espressa da Bazzoli e altri esponenti, hanno detto sostanzialmente: guardate che tanto dall'Europa non arriverà molto, e comunque vedremo sto fondo, come si muoverà quello che deve essere discusso, il fondo di rinascita. Oggi Dombrovskis, parlando al Handelsblatt, ha detto: è controverso parlare di Eurobond, quando se ne parla ognuno capisce una cosa diversa, meglio pensare a un piano enorme, un fondo per la ripresa da 1.500 miliardi di euro. Però dicevo, i nostri ospiti hanno detto: guardate che più che pensare solo agli aiuti europei o a strampalate formule di finte patrimoniali, il problema è lanciare un prestito nazionale, cioè un'obbligazione irredimibile, cioè che non, un prestito che non ridai più indietro, oppure a 50 anni la rendi quasi irredimibile, garantita nella tassazione e nel rendimento da una legge dello Stato, un patto con gli italiani per dire tanto i risparmi se li hai da qualche parte li devi investire, allora investili in un BTP a 50 anni che potrai sempre vendere sul mercato secondario un domani, come si fa con i BTP, e comunque invece potrai lasciarlo a tuo figlio o comunque un investimento con un rendimento. Lo fece l'Italia per l'unificazione del paese, anche dopo l'ultimo fu praticamente liquidato dallo Stato, se non ricordo male, verso gli anni 60-70. Professor Romano Prodi, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ex Presidente del Consiglio, ex Presidente della Commissione Europea. Allora, prima veniamo all'Europa e poi mi dice cosa ne pensa del prestito, diciamo, Italia su Italia. E lei è convinto che questi 35 miliardi, 36 che possiamo usare per il MES senza condizionalità per le spese sanitarie, dirette o indirette, andrebbero, se necessario, attivati, o come temono molti diventano un cavallo di Troia per le condizionalità? E seconda domanda, con un'unica risposta, che le sembra della trattativa in Europa, visto anche l'apertura oggi di Dombrovskis? Ma voglio essere chiarissimo, io ero contrario al MES perché erano condizionati e quindi ci avrebbero messo il bavaglio. Adesso hanno assicurato che non saranno condizionati, quindi dobbiamo solo verificare se questo è vero. Poi 35 miliardi per l'Italia, per mettere a posto tutte le nostre strutture in conseguenza di questo tragico coronavirus, secondo me debbono essere benedette. Non solo intendiamoci un regalo, perché sono un prestito, ma a bassissimo tasso di interesse, ho fatto un po' di conti, ci fanno risparmiare 1,5 miliardi all'anno. Beh, insomma, perché si debbono rifiutare? Ma non solo, guardi che io faccio una riflessione un po' più, se vuole un po' più cattiva, ma che mi deriva dall'esperienza. Se questo viene accettato da Portogallo e Spagna e noi lo rifiutiamo, poi andiamo alle trattative su altri temi come Corona Bond, quello che vuole lei, questi ci dicono: ma come voi rifiutate questo e poi volete quest'altro? Cioè fa parte anche della tattica, diciamo, della trattativa. Ma fa parte anche della tattica. Poi c'è un vecchio proverbio emiliano: dai cattivi pagatori si prende quello che ci danno. Che ci danno, no? Capisco che il nome MES era un nome cattivo, adesso è diventato un nome palatabile. Beh, prendiamoli. Ecco. Allora, adesso sistema un attimo la qualità audio anche in regia, però ho capito quello che lei dice. Se verifichiamo, non ci sono condizionalità, non è un cavallo di Troia, perché non utilizzarli? Io aggiungo, parlo del MES sui fondi per sanità, spese sanitarie dirette e indirette, aggiungo che noi abbiamo già versato al fondo europeo 14,5 miliardi, quindi a mio avviso è anche giusto prendersene una parte come prestito. Però vorrei capire invece cosa ne pensa della trattativa, che si chiamino Corona Bond, se non piace il nome cambiamolo. Le sembra che vi sia un'apertura, viste anche le dichiarazioni oggi di Dombrovskis, a livello europeo? Dunque, questo è un vecchio problema, io voglio solo ricordare che quando si creò l'euro io feci presente che bisognava creare poi un comune tesoro, diciamo così, quindi con i bonus, e Kohl mi diceva: lo faremo senz'altro, ma tu sei italiano, sai che Roma non è stata fatta in un giorno, quindi stai tranquillo che lo faremo. Poi l'Europa si è chiusa in sé, ma lo spirito vero era quello di avere gli euro bond. Questa è la storia nostra. Adesso naturalmente c'è una specie di teologia contro i debiti comuni, un po' anche per colpa italiana, intendiamoci, per certi ritardi, mancanza di riforme, paura che abbiamo iniettato negli altri il debito, ma l'obiettivo comune era, ma adesso non si poteva, però qui siamo di fronte a un caso in cui nessuno può dire è colpa degli italiani, perché questa è una tempesta che è venuta dall'alto e colpisce tutti. Quindi è il caso in cui dei bonds, dategli pure il nome che volete, che tanto è tutto uguale, ma oppure chiamateli come li vuole chiamare la Francia, recovery bonds, quello che volete, ma è il momento in cui c'è una legittimità indiscussa di avere questi bonds, questi titoli di Stato in comune. Questo è quello che io penso. Senta, due domande ancora, professore. Scusi. un po' di aperture ci sono state, perché i tedeschi cominciano un po' a dividersi, no? Qualche socialdemocratico si è mosso. I francesi sono abbastanza, guardi, uso abbastanza, perché poi i francesi, se i tedeschi si impuntano, i francesi non si staccano dalla Germania, ecco. Però sono abbastanza allineati e quindi siamo la maggioranza, ecco. Due domande ancora, risposta secca: secondo lei la von der Leyen è troppo, diciamo, visto che lei ha fatto presidente della commissione, troppo filo tedesca, troppo cauta, sì o no? Sì, abbastanza. Troppo cauta? Sì. Ma meglio lei o la Lagarde? Fino adesso sì, molto cauta, ecco. Però capisco i condizionamenti che ha, ecco, non è che stia a fare il Pierino, insomma. La Lagarde è partita malissimo, poi si è mossa molto bene. Devo dire che la scivolata iniziale è stata una medicina proprio. Per lei. Ultima domanda. Allora, la proposta di Tremonti, Bazzoli e altri, è dire, al di là di quello che ci darà l'Europa, sono sempre prestiti. A questo punto il prestito ce lo facciamo in casa, gli italiani hanno un risparmio enorme, è inutile parlare di patrimoniali strampalate che creano solo tensioni, peggio ancora quelle di Del Rio che era sul reddito. Andiamo a chiedere un prestito nazionale irridimibile a 50 anni, garantito nel rendimento e garantito nella tassazione per legge, e quindi ci finanziamo noi, insomma, quello che ci serve. Io tanto che ci penso, sono perfettamente d'accordo con Tremonti, Bazzoli, perché è perfettamente d'accordo, perché, ha detto? Certo, sono perfettamente d'accordo, anche perché sarebbe un segnale che ci prendiamo cura. Cioè, 20 anni fa i bot erano posseduti soprattutto dai cittadini italiani, adesso ne abbiamo il 5-6% da parte dei cittadini. Allora, il fatto che ritorniamo a comprare bot è un grande messaggio internazionale. Però qual è il mio problema? Primo, bisogna essere molto precisi su quali condizioni. Ad esempio, niente imposta di eredità, in modo che un padre di famiglia dice, vabbè, certo, li metto lì, mi rendono poco, ma per i miei figli, eccetera. E poi fare i conti su quanto potranno rendere. Perché secondo me bisogna arrivare sui 400 miliardi, per dare un grande segnale, 300-400 miliardi, per dare un grande segnale che il paese cambia e si prende cura di se stesso. Però secondo me è il minimo, è anche il minimo per evitare problemi più seri, per evitare patrimoniali di tutti i tipi, ecco. Questo è quello che io penso. No, sono convinto, d'accordissimo con lei, veniva ricordato sia da De Aglio che anche da Tremonti a questi microfoni, che appunto la formula importante era che per legge non potesse essere modificata la tassazione e il rendimento, e sono d'accordo con lei che vengono esclusi dai passaggi ereditari, dall'asse ereditario, cioè dalla tassazione sull'asse ereditario, perché uno se deve comprare un'obbligazione a 50 anni tipicamente lo fa per mantenere dei risparmi figli, per i figli e avrebbe anche un senso di patto generazionale, se vogliamo usare questo esatto, termine. Io mostro solidarietà al mio paese, però ho la mia famiglia, c'ho un futuro, prendo poco di tasso di interesse, ma ho questa grande sicurezza. Secondo me è un bel patto, bisogna studiare gli aspetti particolari per vedere quanto possiamo tirare su, come si dice in questi casi. Poi l'Italia l'ha fatta varie volte e io credo che, secondo me, i cittadini italiani risponderebbero. Ah beh, se l'alternativa fosse una patrimoniale o forma di tassazione, non c'è dubbio. E poi, secondo me, anche come senso patriottico, ripeto, i risparmi da qualche parte li devi mettere. Ma in questo caso, a chi mi iscrive, poi saluto e ringrazio, guardate che i prestiti irredimibili degli anni, dei decenni passati, si potevano vendere sul mercato secondario come un qualunque bot BTP. Cioè, se tu hai bisogno di questi soldi nel frattempo, lo collochi sul mercato, ti scontano i rendimenti futuri, si va a vedere il prezzo, qual è la richiesta, e lo vendi. Grazie anche al professor Romano Prodi per essere stato con noi. È veramente tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.